24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersania. L'ha capita? Adesso farò un master in bersanese. Cari italiani, buongiorno! Eccoci, sono le 6:31 minuti e siamo già qui pronti, sbrandati come Miriam Lucchetti da ore, come il nostro alpino Peter Bescapè in regia da ore. Pronti ad accompagnarvi nei vostri posti di lavoro fino alle 9, siamo in diretta e ricordate sempre con il solito mantra. But please relax. Sempre relax. Siamo qui e possiamo aprire la nostra serranda, il nostro bar condicio dove Nicole Minetti, sempre lei. Il caffè volentieri a tutti quanti. Offre e avete finito di rompere le palle con la Minetti. È la Minetti, sempre la Minetti, non sapete parlare d'altro. Andate a lavorare, pelandroni. Non gli va giù a questo nostro ascoltatore, non gli è andata proprio giù questa storia che la Minetti ci offre il caffè da mesi, tanto tutto è rimborsato dalla regione, no? È tutto rimborsato dalla regione, voglio immaginare. No, qui si scherza. Voglio salutare Vincino, buongiorno e ben ritrovato Vincino. Buongiorno. È tutto rimborsato dalla regione, tranquillo, tu puoi bere 3, 4, 5 caffè, tutto rimborsato. Io sento male però. Adesso cerchiamo di mettere a punto. Mi sente meglio? Oggi, come dire, come se fossimo in tanti. Come se fossimo in troppi. Intanto le presento, l'aveva già conosciuto e che non è parente però, Massimo De Manzoni, il vice direttore di Libero. Sì, come no, assolutamente, che piacere. Buongiorno anche Vincino. Quello della colonna infame. Sì, ecco. Sì. Infame basta. Eccolo lì, cominciamo con le parentele false di Massimo De Manzoni. Vincino, si sono rimborsati pure la Nutella. La Nutella, che là è la Nutella era un mito, là. La Nutella. Da Moretti a Coso, praticamente... da Veltroni, era proprio il massimo proprio della gioia la Nutella, questi si strafacevano di Nutella. Sì. Allora, sono con loro, cioè, sì. Se la politica non serve a questo, a dare la Nutella, a che cosa serve? A che cosa serve? Chi lo sa? A questi satanassi di Libero l'ha messo addirittura in apertura di prima pagina, al PD paghiamo la Nutella, adesso chissà quant'è, De Manzoni, chissà. Enormi proprio. Beh, insomma, 20 metri per 15. 2,70 euro, penso sì, che sia poco, no? De Manzoni, subito voi, eccoci. Cosa c'è di slot? Ma era per par condicio. Ma vi immagino ieri in redazione. Quando sono state le cose del centrodestra, sono finite in prima pagina su tutti i giornali. Oggi alcuni giornali la nascondono un po' qui e là, e noi sapendo che l'avremmo fatto, abbiamo fatto par condicio. No, ma infatti... La segna stampa qualcosa gli italiani vedono. Ma per carità, ma io vi vedo in retrospettiva ieri in redazione la Nutella! titolo! Li inchiodiamo con la Nutella! Eccoli lì. Allora, leggo per esempio dal Corriere della Sera. Nutella, tram, vino, bollette. C'è anche un ombrellino automatico da 9 euro, due coni da 8 euro. Un magnum, le piacciono i magnum, Vincino? Il magnum, un euro assolutamente, un moltissimo. Corso di inglese, il corso di inglese per 146 euro, speak up, hanno comprato il corso la cosa più clamorosa è che uno che si è fatto anche pagare l'iscrizione all'ordine dei giornalisti. Sì, Carlo Spreafico. L'ordine mi ha colpito più di tutto. si è fatto rimborsare l'iscrizione all'albo dei pubblicisti, per la verità. Vincino, 100 euro la tassa. Poi ci sono, come dire, ma le cene, i pranzi, queste cose vanno sempre. E ci sono poi Enrico Marcora, 11 tombole. Vincino, 11 tombole si è fatto rimborsare, ma io non rido per non piangere. Bisogna subito mandare il nostro Oscar Giandino. Basta! Basta! Basta! Questa ci vuole. Oppure evocare. Senta qui, Vincino, una volta ci ha chiamato un contadino, fantastico. Sentite cosa ci ha evocato. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo, una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Eccolo qui, Vincino, le piace come ricetta quella che il nostro contadino gli aveva detto? Io ho un problema però, non sento, è tutta disturbata, mi puoi fare richiamare? Certo, come no, adesso metta giù che la richiamiamo. Sì, allora, grazie, intanto, De Manzoni, piace questa storia della zappa, era un contadino vero? Ci ha chiamato, ha detto sono un contadino. È particolareggiatissimo questo contadino, è fantastico. Lo utilizzeremo sempre, per chiunque. La scondita. La zappa, sì. mica uno ci mette pure il sale, una cipolla a pranzo e una minestra scunnita, vogliamo farlo risentire? E soprattutto la zappa da 7 kg, io me immagino una roba, non riuscirei manco a tirarla su, la zappa del contadino, sentiamo. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappa Lucambo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Anche il pezzo di pane duro, duro. Allora, qui De Manzoni, ci capiamo qualcosa di questa campagna elettorale? Se non che ogni giorno se le danno un po' di santa ragione. Ma io continuo a rimanere dell'opinione e della convinzione che ha ribadita anche ieri da Bersani con quella telefonata a Monti per la Lombardia. Sì. Che alla fine ci sia un'intesa di fondo tra Bersani e Monti. L'inciuccio. Però c'è anche da dire che gli uomini sono uomini e che se continua così alla fine i toni saranno talmente accesi che sarà anche difficile, anche perché poi un ostacolo vero, serio nell'alleanza c'è e si chiama CGIL, che ha un suo bel programma preciso, un suo bel peso all'interno del PD, e quindi poi a fare l'intesa tra il PD e la CGIL non sarà dura, tra Monti e la CGIL non sarà facilissimo. Allora vediamo un però po'. Io continuo a rimanere convinto che c'è l'accordo e quindi ci sia un bel po' di gioco delle parti. Sì, se le danno di santa ragione Monti, Vincino che l'abbiamo recuperato, dice De Manzoni, se le danno di santa ragione Monti e il PD, ma in realtà è ricaduta la linea. Ma che succede? Vincino lo chiamiamo, non sente, lo richiamiamo, non sente, butta giù, e chi lo sa, mo adesso lo richiamiamo ancora. Insomma, questa intesa. Ma domanda chiave: Balotelli sposta voti? Io ancora non ci posso credere. Ieri Filippo Facci, giusto su Libero, dice: voglio conoscere uno che vota il PDL per Balotelli. Sposta voti? Lo chiedo a Vincino che l'abbiamo recuperato. Ma sono tantissimi, assolutamente. Ma questo è uno dei punti del contratto fatto, uno dei più importanti. Ah, il vero contratto con gli italiani. Balotelli al Milan, il contratto con gli italiani. Punto numero 3, 4 più o meno, no? 5, punto 1. Ma quanti milanisti ci sono in Italia? Ma ho capito, ma io sono milanista, ma non è che mi convinco se devo votare Berlusconi o non devo votare perché compra Balotelli. Appunto, tra l'altro, ma anche fosse, ma quanti ce ne sono i milanisti in Italia? Tanti, abbastanza. Sì, ma no, Vincino intanto ci ha abbandonato. Lo chiamiamo e lui non sente e butta giù, non sappiamo che fare. E sì, sono tanti, ho capito, ma cioè, veramente sposta l'1%, il 2%, è davvero una roba del genere. Io sto con Facci, ci sarà qualcuno anche che si convince, ma non ci credo. E poi ripeto, per tutti i milanisti che ci sono, ci saranno anche tutti gli interisti arrabbiatissimi perché torna in una squadra avversaria, e quindi magari quelli che volevano votare Berlusconi non lo votano con lo stesso ragionamento. Io non riesco a credere. Quelli in teoria, secondo questa logica, non dovrebbero votare Berlusconi per principio perché è presidente del Milan. Allora, se tanto. E gli juventini meno che meno, e i napoletani nemmeno. Non penso che ragioniamo proprio così male in Italia. Non lo so. Vincino, ci sente adesso? Eccoci di nuovo. Ci sentiamo. Allora, si parlava di Balotelli. Dice che sposta voti. Balotelli sposta voti, sicuramente. Non è sempre spostati, assolutamente. Non è un cattivo ragazzo, ma proprio per questo lui. Ma uno deve votare Berlusconi perché compra Balotelli. Ma è come dire, è uno dei tanti motivi, no? È così la storia. Se io sono milanista, io non sono milanista, però quello che è milanista è scemo fa così. Come dire, no? Mentre invece Bersani non compra Messi, per cui non, chi non lo sposta sa. Voti. Però sta trattando. Sentiamo a questo proposito Berlusconi, che ieri è andato a Tele Kabul, e poi Bersani, Berlusconi a Tele Kabul da Rai 3 a parlare dei due Mario, no? Sì. Balotelli ha segnato due gol e ha fatto piangere i tedeschi, e che invece l'altro Mario, Monti, ha segnato due gol anche lui, l'IMU e il redditometro, e ha fatto piangere tutti gli italiani. Gli italiani. Poi qui la Bianca Berlinguer vincino ha detto preciso, come dire, lineare. Sì, no, a slogan non lo batte nessuno. C'è dire che Bianca Berlinguer, il direttore, ha detto vabbè, ho capito, con queste minchiate, insomma, finiamo pure. Però è uno slogan efficace, no, De Manzoni, questo Mario. Sì, infatti. Io ho idea che la Berlinguer abbia tagliato corto perché si è resa conto che era un bel gol invece quello di Berlusconi. Era un bel gol, sì, però era come dire, sono quelle cose appunto da campagna elettorale, sono degli slogan, come dire, sì, vabbè. Ma in 30 secondi in televisione slogan dici, infatti è quello. Sentite invece Bersani, allora, che ha fatto la battuta per la quale però rideva della sua stessa battuta, e qui da battutista bisognerebbe spiegare che insomma non si ride proprio della sua stessa battuta. Nelle stesse ore Berlusconi trattava Balotelli, quindi io vi do l'annuncio che sto trattando con Leo Messi per il Bettola Football Club, poi no, a Bettola non c'è neanche la squadra, ma mi ha detto che gioca da solo. Vabbè, questo Vincino, meglio Bersani o Berlusconi in queste battute? No, obiettivamente da fuori bisogna dire che per ora ieri è una giornata favorevole a Berlusconi. Dall'altro lato c'è stato ingroia con la Bocassini, che gli hanno, come dire, sì. Gli hanno eliminato un concorrente, cioè due probabili concorrenti. No, no? Ma infatti, volevo entrare proprio su questo argomento. Gli altri due argomenti di questa mattina che volevo sviscerare con voi sono ingroia, Boccassini, Borsellino, Falcone, sì. E poi anche il Montepaschi, che poi voglio capire se Vincino ha cambiato. E la Maserati pure. La Maserati. E la Maserati, perché quelli fanno 50.000 Maserati, ma ci dobbiamo comprare 50.000 Maserati all'anno. E mettiamoci insieme, magari. Poi costeranno pochissimo, tipo 9.000 euro per una ruota, no? Sì. Per arrivare a tutta la macchina ce ne vuole. E Vincino, dica la verità, che il sogno di avere una Maserati un po' lo coltiva. Ah, il sogno, io me ne stavo, guarda, è presente le Maserati quelle là fatte da De Tommaso, quelle là sola, sì, complete? Sì, sì. Pure quella mi sarebbe piaciuta, guarda. Appunto, prima o poi chissà, magari uno mette dei soldi da parte, poi chissà. Prima però ingroia, ma che sta succedendo? Ma se le stanno dando di santa ragione, hanno tirato in ballo i magistrati uccisi dalla mafia, e non mi sono paragonato a Falcone, la sorella di Falcone che dice non si paragona al mio fratello, ma io non mi sono paragonato, la Boccassini si vergogni, ingroia, si vergogni lei, e poi non dico cosa pensava Borsellino di lei, quelle frasi che tanto uno a Paolo Borsellino, pace all'anima sua, non si può chiedere, ma io non lo so, ma cosa adesso tutti a chiedersi, De Manzoni, tutti ad arrovellarsi, a chiedersi che avrà mai pensato di della Boccassini, Paolo Borsellino, e tanto non glielo possiamo più chiedere. Io ieri ho parlato con Salvatore Borsellino, il fratello, ma era sconsolato, ha detto: io gli avevo detto a ingroia di non toccare mai mio fratello in campagna elettorale, oggi lo chiamerò e glielo dirò. E invece ha tirato fuori anche Paolo Borsellino, oltre che Falcone. De Manzoni, che succede? Che sta succedendo? Un corso esterno in linguaggio mafioso, abbiamo definito questa battuta d'ingroia. Sì. Perché uno o le dice le cose o non le dice, cioè bisogna essere chiari. Ingroia poi è una vita che va in giro dicendo sono l'erede di Borsellino, sono l'erede di Falcone, ma soprattutto di Borsellino. Noi oggi raccontiamo un po' di aneddoti. Borsellino lo chiamava il gobbetto comunista, a quanto pare. Però anche questo, insomma, a capire, cioè, chissà poi se era vero, come facciamo a saperlo? Vabbè, ma comunque lo dicono i testimoni, insomma. Vincino, che come finirà questa vicenda? Insomma, è una vicenda un po' triste, devo dire. No, ma è tristissima, e il guaio è che non è buono questo affare politica, assolutamente. Ha sbagliato tutto. Ha sbagliato la compagnia, il gruppo, ha 5 partiti lì dietro, ha sbagliato tutti i candidati, sbaglia ogni cioè lui è come Bersani, ogni giorno scende uno o due punti. Ogni, però vedi, Bersani ogni... scende, ma insomma probabilmente ce la farà ancora. Lui scende e perde il quorum, perde questo, è un disastro, guarda, è un disastro. Io c'ho un sacco di amici che avrebbero votato lui e invece qua se li perde ogni giorno uno. Sì, questa di Borsellino è proprio una brutta mossa, ma infatti so che non ne vuole più parlare, per carità, cioè ha capito, forse ha fatto questa nota, una nota dicendo non meglio che non dica quello che Paolo Borsellino pensava di Ilda Boccassini. Adesso rimarrà questo giallo in eterno, sempiterno, chissà chi avrà mai detto Paolo Borsellino. 24 mattino. Caro Milan, lei ha detto una cosa sbagliata. Al pubblico impiego si accedeva un tempo per concorso. In Sicilia, per esempio, almeno da 20 anni non si fanno concorsi. Caro Alessandro, sono un tassista di Genova. Qui c'è una crisi, non facciamo altro che pagare tasse, non ce la facciamo più. Ci guarda Ballarò e si vede la Finocchiaro, Casini e tanti altri, quelle bisce che strisciano. Ce ne fosse uno che dice, ragazzi, è arrivato il momento che ci dobbiamo abbassare gli stipendi. Ma figuriamoci, ma non ci pensano neanche. Ma me ne mangerei a colazione proprio. A colazione! L'unica cosa è che vorrei mandare a casa tutti i nostri politici e tenere Grillo presidente. Ciao. Qui tutti dicono basta tasse, basta tasse, basta evasione, popolo di ladri, pagate le tasse, basta evasione, ladri! Scarta la cassa che ti frega solo i soldi in tasca, coi balordi c'ha le mani in pasta, è arrivata l'ora dei e basta. Ma dove vivete? A Paperopoli? Se compra Balotelli certo che prende il 2% in più, li rivotano nonostante tutti i disastri che hanno fatto, la gente non sa più, non si ricorda più niente che ha governato Berlusconi, che ha fatto tutti questi disastri. Andiamo avanti così, siamo nella merda fino al collo, per non dire di peggio. Ho appena sentito di parlare, il ministro Grilli diceva che la Banca d'Italia ha vigilato, ha operato, ma se Dine Guardi non vigilava, che succedeva al Monte dei Paschi? Gli portavano via anche Rocco Salimbeni così? Io non lo so, cioè a me mi sembra di parlare con fantasmi, guarda. Allora, non uova, ma pietre. Questi signori che non hanno ancora dato una lira ai terremotati, ma hanno trovato in 15 giorni 4 miliardi di euro per Monte Paxi, ripeto, uova, ma pietre, pietre a volontà per questi signori, se hanno il coraggio di tornare. Vabbè, animi un po' surriscaldati, ma così sono i messaggi della nostra segreteria telefonica. Siamo con Vincino e siamo con il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Avete sentito cosa ha detto Albertini ieri? Gabriele, Madonna Albertini. Mia, ma la gaffa, non bruciarmelo, Vincino, facciamolo sentire. Albertini su Maroni che aveva la febbre, sentite. Maroni è ammalato, mi dispiace, gli auguro di superare ampiamente e molto velocemente l'influenza perché vogliamo competizioni leali, non con disabili. Vincino. Non con disabili, ma come si fa? Ma questo secondo quello di Bersani, allora Monti gli ha detto di una stupidaggine, lui ha detto tre stupidaggini subito una dopo l'altra. Ma no, con i disabili, ma giustamente l'associazione dei disabili e quelli in associazione, ma anche quelli che non fanno parte dell'associazione, ma si sono infuriati. Ma De Manzoni, ma come si fa a dire una cosa del genere? Sarà stata una gaffa. Secondo me lui ha sentito la Finocchiaro che diceva siamo parlamentari non bidelle e ha detto beh, io cosa faccio? Ma come si fa? Ha ragione, disabile è peggio, la storia dei disabili è ma peggio. Sì, dai, disabili. Una mentalità da proprio fuori del mondo, proprio sì. antichissima. Cioè, proprio quello barbarica. È disabile, no? Proprio quasi. Io lo so, sono sicuro, conosco Albertini, sarà la classica voce dal senso fuggita, per carità, non è. Gli mettessero davanti il microfono mille volte e pensandoci non lo ridirebbe più quella parola. No, ne direbbe al 300, guardi, Albertini, se non è quello delle mutande in giro tutto così, è uno proprio che c'entra? Fuori dal di là del bene e del male, secondo me. Guardi. No, ma che c'entra? Cioè, si è reso conto, probabilmente la derubricheremmo a gaffa. Sì, anche, volta no? Ha detto la storia dei gay. Sì, che in una famiglia gay nascono figli gay. come dire, viene tutta una stirpe di gay, allora questo terrore qua, no, che a questo punto i gay saranno di più, Però quello era un ragionamento più complesso e sul quale, per carità, non era determinismo di quello là storico, no? No, no, no, sul quale non mi addentro perché stirava in ballo cose di psicologi, studi, ma questa è stata una battuta, gli ha messo un microfono, io non voglio fare competizioni con disabili, ma io non capisco veramente come si fa. Però il Monte dei Paschi è, l'hai visto che in una telefonata di un'ora è salito un miliardo di punti. Sì, oggi Repubblica scrive che in un'ora, di notte, in una telefonata tra Mussari e Botin, il capo di Santander, il prezzo di Antonveneta è salito di un miliardo. Un miliardo. Un miliardo in un'ora, questo scrive Repubblica. 501, a proposito di Monte Paschi, devo fare una rettifica perché mi ha scritto gentilmente il presidente della fondazione, dell'associazione delle fondazioni Casse Risparmio, dicendo che non è vero, come dico, che le fondazioni non pagano l'IMU. Prima godevano di alcune esenzioni che adesso non godranno più di queste esenzioni, perché prima, come tutti, per tutti gli immobili a scopo sociale eccetera, godevano. E invece no, adesso non mi rimette in difficoltà, Vincino, che poi mi riscrivono. Le fondazioni pagano l'IMU. Però devo chiedere questo, De Manzoni, perché oggi avete scritto che la moglie di D'Alema ha una cattedra a Siena finanziata o comunque aiutata anche dal Monte Paschi, proprio andate notizia. È una notizia, sì, ho capito. cosa vorreste dire con questo? Ma scusa. Adesso c'è Borsani che c'è tutto il PD che minaccia di querelare noi di Libero scriviamo cose che a loro non piacciono molto, cioè, che raccontiamo un sacco di falsità, non spiegano quali sono le falsità, e noi stiamo raccontando gli intrecci che ci sono, che vengono negati dal partito, ma che ci sono. Oggi raccontiamo una storia, altro che quella di D'Alema, che è meravigliosa. Sì. Allora, il Monte dei Paschi di Siena si fa rimborsare regolarmente i soldi per il mancato lavoro che fanno i suoi dipendenti all'interno del Monte dei Paschi. Ma perché? Dove sono questi dipendenti? In politica. Sono tutti in comune, sono il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali di Siena e i consiglieri comunali e circoscrizioni di Siena. Hanno chiesto 110.000 euro nell'ultima tranche di rimborso per mancato lavoro, per forza. Certo. I loro dipendenti, cioè, come tutti, che lavorano in comune. Come tutti i dipendenti distaccati che fanno politica nelle aziende. Però in questo caso dice, casualmente sono tutti politici in comune in amministrazione del Partito Democratico. Vabbè, qua non ne usciremo più da questo ginepraio. Io vi voglio salutare, grazie per essere stati con noi, Vincino, che è il condirettore del male. Settimana prossima esce il prossimo numero, la richiamiamo Vincino e così ci dice qualche vignetta in anticipo. E Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, ci troviamo dopo il giornale radio delle 7. Lo so, Alessandro, perché in Argentina adesso è pieno di corrotte, lo sai perché? Perché siamo tutti figli di italiani, Alessandro! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:20 minuti e siamo qui allora a leggere i giornali, cari ascoltatori. Vi ricordo prima gli ospiti che avremo più avanti. Alle 8:15 sarà con noi il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli. E c'è stata una svolta sull'agguato a Musi, è stato fermato il presunto attentatore. Poi insomma Giancarlo Caselli è stato anche capo alla procura di Palermo, magari un paio di domande su quello che sta succedendo tra Ingroia, Borsellino, Falcone, la Boccassini, insomma magistrati che se le danno, magistrati e politica. E poi torneremo, cari ascoltatori, sulla questione dei rimborsi dei consiglieri della regione, in questo caso la Lombardia, ma non voglio anticipare molto perché già c'è tanto sui giornali. L'ultima vicenda riguarda anche la Nutella, li han beccati con le mani nella Nutella. Ma appunto andiamo a leggere i giornali. Giovedì 31 gennaio, non dico molto perché ne approfondiremo ora tra poco, qualche giornale addirittura apre su questa vicenda. Montepaschi invece è l'apertura e Saipem per altri quotidiani. Il Sole 24 Ore, Piazza Affari cade con Saipem, crollo del 34,3% sull'allarme utili, Consob blocca lo short selling. Questo è il titolo d'apertura. Corriere della Sera, Montepaschi, accuse più gravi, associazione a delinquere, questa è la nuova accusa nei confronti degli ex vertici. Repubblica, Montepaschi, giudici pronti ai sequestri. La Stampa, Montepaschi, ora l'accusa è associazione a delinquere. Il Messaggero, caso Montepaschi, accuse più gravi. Avvenire, due tegole sulla borsa, Saipem e Montepaschi affondano Piazza Affari. Anche Il Giorno apre su questo, gli scandali affondano la borsa. Il Fatto Quotidiano apre sulla vendita di La 7. Regalano La 7 all'amico di Berlusconi che si fa pure pagare. Sarebbe vicino per l'acquisto Urbano Cairo, questo scrive sulla 7 Il Fatto Quotidiano. L'Unità, ingroia, scontro su Falcone, mentre Il Manifesto mette Vendola e ingroia in prima pagina con una sorta di appello: astenetevi, c'è un gioco al massacro tra Vendola e ingroia che si lanciano accuse di tradimento. Ed eccola qui l'apertura per Libero Giornale sui conti dei consiglieri della Lombardia. Libero, scandalo in Lombardia, al PD paghiamo la Nutella coi soldi pubblici. Il Giornale, Bersani ci sbrana, querela al Giornale e ci fa pagare la Nutella. E allora voglio partire proprio da qui, le mani come al solito se state guidando, sono ben salde sul volante. Quando arrivate al semaforo, se è rosso, si possono staccare per un leggero pugnetto, proprio pugno, se magari avete voglia di sfogarvi al volante, ma poi non addebitatelo a Radio 24. Se invece siete a fare colazione, solite mani ben ferme, se portate le tazzine di caffè bollente, perché Nutella, tram, vino, bollette, ecco i rimborsi illegali. Titolo del Corriere della Sera. Le spese dei consiglieri della Regione Lombardia dell'opposizione, dopo che qualche mese fa erano state messe sotto la lente di ingrandimento con tanto di avvisi di garanzia, le spese della maggioranza. Ora, pagina 12 del Corriere, leggete: un barattolo di Nutella, bottiglie di vino, un crodino, il biglietto del tram da un euro, un mini ombrello, le spese delle bollette di luce e telefono, l'affitto di un box. Queste sono varie spese che sono state messe a rimborso. Certo, scrive Guastella, se si paragonano ai rimborsi spese di PDL e Lega, che tra il 2008 e il 2012 hanno raggiunto i 2 milioni, i 537 mila euro della minoranza sono poca cosa, tenendo conto che i soli tre gruppi di SEL, UDC e IDV hanno ricevuto in tutto 346 mila euro. Ma comunque, eccolo qua, il consigliere PD Francesco Prina ha ottenuto il rimborso di una ventina di bollette per utenze del telefono e della luce allacciate allo stesso indirizzo dove risulta risiedere a Corbetta. Sarà una coincidenza, magari. E poi pranzi, taxi, benzina, alberghi sono invece la passione dei consiglieri. Giuseppe Civati del PD ha ricevuto 3.145,99 euro, la maggior parte in taxi, qualche biglietto aereo o ferroviario, un migliaio per acquistare 1.660 francobolli. E poi Alessandro Alfieri, PD, dovrà spiegare perché il 19 dicembre 2010 ha speso 1.600 euro per un pranzo con 80 coperti al ristorante Orchidea di Varese e altri 400 euro il 15 luglio 2011 per menù fisso al Montorfano. Chiara Cremonesi, SEL, si è fatta rimborsare un biglietto da 1 euro per il tram. La vera passione però è la rete. Inserzioni pubblicitarie su Facebook, 6.600 euro. 18.150 per una campagna di comunicazione sempre su Facebook e 6.534 euro per ottimizzare i contenuti del sito internet. E poi però si arriva a Carlo Spreafico, un biscotto a 5 stelle con acqua frizzante San Benedetto, 3,70 euro di rimborso, fototessera 8 euro, due coni piccoli e uno medio 8,10 euro, un magnum 1,95 euro e eccola lì, il barattolo di Nutella 2,70 euro, il crodino al bar 6 euro, un mini ombrello automatico 9,40 euro, il canone di locazione di un box all'Ecco 648 euro. queste alcune spese, come non utilizzare lo slogan della Nutella, consiglieri beccati con le mani nella Nutella, titolo del Fatto Quotidiano a pagina 6. Nel PD si fanno rimborsare la Nutella, titolo di Libero a pagina 8. Pirellone dalla Nutella agli hotel di lusso, Repubblica pagina 20. Ecco le spese folli dell'opposizione. Tra l'altro Carlo Spreafico faceva parte dell'ufficio di presidenza, 5 membri del consiglio della regione Lombardia fanno parte dell'ufficio presidenza, per mesi e mesi era stato l'unico non indagato, adesso 5 su 5 Unplane, 2,70 euro di Nutella, di vasetto di Nutella. Ne parleremo più approfonditamente alle 8.30, avremo ospite il capogruppo, torna con noi il capogruppo del Partito Democratico alla Lombardia, Gaffuri, e il direttore del Secolo XIX, perché in Liguria anche, sapete, la vicenda va avanti da un bel po', Umberto La Rocca. Infatti oggi sul Secolo c'è un'intervista a Luca Cordero di Montezemolo, un'intervista politica a tutto campo, però Montezemolo a pagina 3 in questa intervista propone anche manette per le spese pazze dei politici. Tra le varie cose che di cui parla in questa intervista di Luigi Leone, un'intera pagina, manette per le spese pazze dei politici. Vi segnalo, giusto per mantenere alto la vostra adrenalina, diciamo così, due chicche. Schettino, che ieri si è presentato al processo per la causa di licenziamento, e gli hanno chiesto: ma lei tornerebbe a comandare una nave? Certo che tornerei a comandare una nave, anche domani, è il mio sogno, tornerei a comandare una nave. Questo è il titolo del Messaggero e anche del Giorno. Sono pronto a tornare al timone, l'ultima perla di Schettino, vorrei guidare ancora una nave da crociera. E poi Corona, vi devo dare la chicca quotidiana su Fabrizio Corona in carcere a Bustarsizio, continuano ad arrivare lettere, non so se il ministro Fornero può accogliere il nostro appello di rendere lavoro usurante il lavoro di centralinisti al carcere di Bustarsizio, per le tante lettere e mail e telefonate di fan di Fabrizio Corona che arrivano e assillano il carcere. Star anche in cella, fa sapere Gabriele Moroni sul Giorno che la giornata di Fabrizio Corona si svolge così: è solo in cella, l'arredamento è spartano, letto comodino, sgabello, un piccolo televisore in bianco e nero, quindi può vedere tutte le trasmissioni che lo riguardano. La domenica mattina ha partecipato alla messa alle 10, celebrata nel corridoio dell'infermeria, si è portato lo sgabello dalla cella, si è disposto in semicerchio con gli altri, tra le mani il libro delle preghiere, ha letto, pregato e scambiato il rituale segno della pace. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Vabbè, ringraziamo davvero la nostra gentile ascoltatrice che ci manda delle sigle gratis e per amore, per passione, e noi la ringraziamo davvero. Allora, siamo qui a leggere i giornali e le vicende che leggerete sui giornali sono soprattutto per quel che riguarda la politica, l'economia e la finanza. Montepaschi ancora, il caso Saipem, che tenteremo di spiegare, ovviamente anche sono cose abbastanza tecniche, di borsa, e poi la campagna elettorale. Montepaschi, ci sono delle accuse più gravi che ora rischiano di arrivare in capo alla vecchia dirigenza. I PM sono pronti a indagare per associazione a delinquere, cioè i vecchi vertici si sarebbero messi insieme per truccare i conti con un unico disegno criminale. Questa è l'accusa pesante che rischia di piombare sui vertici passati del Montepaschi. Si stringe anche, fa sapere Sara Monaci sul Sole 24 Ore, sul falso in bilancio nella vicenda del Montepaschi. Leggo dall'articolo del Sole 24 Ore a pagina 7, spunta l'ipotesi di falso in bilancio per quanto riguarda le operazioni in derivati che avrebbero causato finora perdite potenziali pari a 500 milioni. Gli inquirenti non escluderebbero questo tipo di contestazione, visto che le perdite nel periodo 2008-2009 non sono state scritte nei libri contabili. A questo si aggiungerebbe inoltre il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca Italia e Consob. Ma appunto addirittura il Corriere e la Stampa parlano poi di associazione a delinquere come nuova ipotesi di reato. Leggete per esempio l'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Al vertice del Monte Paschi Siena c'era una vera e propria associazione a delinquere, questa è la convinzione dei pubblici ministeri che hanno fatto scattare questa nuova gravissima accusa nei confronti dell'ex presidente Mussari, dell'ex direttore generale Vigni, dell'ex capo dell'area finanziaria Gianluca Baldassarri e del suo vice Alessandro Toccafondi, oltre a quei manager che si occuparono dell'acquisto di Anton Veneta. A proposito dell'acquisto di Anton Veneta, oggi Repubblica svela un retroscena a firma Carlo Bonini a pagina 3, davvero insomma interessante. Una telefonata di notte tra Mussari e Botin e Anton Veneta fu ceduta a 1 miliardo di euro in più. Anton Veneta, scrive Carlo Bonini, venne acquistata al telefono una notte di novembre del 2007, la stessa notte in cui il suo prezzo lievitò da 8,2 a 9 miliardi di euro. A decidere furono i due uomini che erano in linea. Da una parte Giuseppe Mussari, presidente di Montepaschi, ed Emilio Botín Sanz de Sautole y García de los Ríos, fondatore e capo esecutivo del Banco Santander. Mussari comprò ciò che non poteva permettersi con denaro che non aveva e Botín si liberò di ciò che non gli serviva e di cui era diventato proprietario 30 giorni prima. In quella trattativa, racconta Alessandro Daffina, Chief Executive Officer di Banca Rothschild per l'Italia, uno dei banchieri che vi presero parte da quella trattativa, non venne redatto, virgolettato, né si mosse un solo pezzo di carta. Insomma, non è rimasta alcuna traccia scritta. Beh, questa valutazione di 7 miliardi, poi di 8 e poi l'out su 9 con questa telefonata, dice, scrive Repubblica, una telefonata notturna nella quale il prezzo è aumentato di 1 miliardo nel giro di una sola telefonata. A proposito di Mussari, c'è anche, si viaggia molto sui retroscena perché ovviamente non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma Marco Imarisio sul Corriere della Sera racconta una frase che viene attribuita a Giuseppe Mussari che, beh, certo, io vi do così per attribuita, perché anche Marco Imarisio scrive avrebbe detto questo, e se è vero davvero inquieta un pochettino. La frase di Giuseppe Mussari è questa, virgolette: a essere sincero, se mi facessero domande tecniche sui derivati io non saprei neppure cosa rispondere. Così la frase che avrebbe detto Mussari in queste giornate di silenzio in cui, scrive Imarisio, ogni giorno torna nella sua villa a Montalbuccio e è un evento anche per chi segue questi arrivi, perché è interpretabile come possibile inizio di un capitolo decisivo in una vicenda che si annuncia ben lunga ogni volta che rientra a casa. La sua nuova vita non è certo quella di un recluso. Sono state almeno 2 le riunioni con gli avvocati che seguiranno la sua vicenda giudiziaria. E poi questa frase, la frase che preluderebbe in realtà alla linea difensiva, secondo il Corriere, di Mussari, e che è questa: i contratti decideva tutto Baldassarri. Ecco perché, secondo gli avvocati e secondo il Corriere della Sera, l'ex presidente aveva autonomia fino a 2 miliardi di euro, ma poi decideva tutto Baldassarri. Ecco perché quella frase a lui attribuita, se mi facessero domande tecniche sui derivati non saprei neppure cosa rispondere. Sempre sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo racconta e fa un po' l'elenco di tutti i soldi che dal Monte Paschi sono andati a finanziare in maniera liberale, in maniera autonoma, in maniera singola, indipendente, la politica, cioè versamenti che io, cittadino Alessandro Milan, posso fare per il partito Pinco Pallino e che molti dei vertici del Monte Paschi a titolo personale facevano ai partiti. I contributi dei banchieri ai partiti, da Mussari a Palenzona, da Verdini a Mancini, ecco le sottoscrizioni private. Scrive Sergio Rizzo, mai e poi mai si potrà rimproverare a Giuseppe Mussari di non essere stato generoso col suo partito. In 10 anni ha versato nelle casse del PD di Siena e della locale federazione di esse 683.500 euro, l'ultimo assegno da 99.000 euro quando era già presidente dell'ABI. Solo lui conosce il reale significato di quei legittimi finanziamenti. Noi sappiamo solo che nessun altro banchiere in Italia è stato tanto pubblicamente prodigo verso un partito quanto lui. Il PD e i DS di Siena hanno incassato in una decina d'anni, in appunto finanziamenti legittimi e liberali, 1 milione e mezzo di euro grazie a contributi. Nell'elenco c'è anche 125.000 euro tra il 2010 e il 2011 a versarli il presidente della Banca Antonveneta Ernesto Rabizzi, insieme al presidente della Sansedoni, immobiliare della fondazione Luca Boneschi, al consigliere della stessa fondazione Paolo Fabbrini, agli ex consiglieri della Banca Toscana Moreno Periccioli e Alessandro Piazzi, ai revisori Giovacchino Rossi, Marcello Venturini, ai consiglieri Fabio Borghi, Saverio Carpinelli, all'ex vicepresidente della Banca Toscana Aldighiero Fini, senza contare i tanti ex politici cui la banca ha offerto una comoda ricollocazione. Insomma, tutti i conti dei finanziamenti che hanno fatto i banchieri in maniera privata ai partiti. Li trovate sul Corriere della Sera, pagina 3, a firma Sergio Rizzo. Poi sulla vicenda Montepaschi registro anche l'editoriale di Vittorio Feltri che polemicamente scrive in prima pagina: hanno intercettato tutte le olgettine, una sola intercettazione sui banchieri non c'è. E scrive Feltri: mi impone di confessare una cosa, ho sempre avuto un debole per le intercettazioni telefoniche, mi piacciono da morire, ogni volta che un giornale ne pubblica una non resisto, mi tuffo nella lettura, mi beo di ogni particolare. Ricordate il bunga bunga, le oggettine, ogni mattina aprivi il Corriere della Sera e vi trovavi sette colonne di piombo roventi, eccitanti, Patrizia D'Addario, i suoi rapporti intimi con Berlusconi, impossibile voltare pagina, ti bevevi l'intero racconto, lui che la prende, che la rigira nel lettone, poi si fa la doccia, quindi ritorna sul materasso e giù ancora di brutto, altro che letteratura osera, roba vibrante questa. Certo, poi Feltri scrive più avanti: però ora il segreto bancario è stato abolito. Come abolito? Non un magistrato che si è fatto venire il sospetto che fosse necessario mettere qualche cellulare sotto sorveglianza. D'altronde non ha sorvegliato una mazza neanche la Banca d'Italia, se è per questo. Però come sono rispettosi adesso i sostituti procuratori della privacy dei banchieri, ascoltare le loro confabulazioni? Ma siamo matti. E se poi finiscono sui quotidiani? Cosicché non c'è più bisogno di una legge che tuteli il cittadino. I capitali, in conclusione, si possono spartire, sottrarre, distrarre, e se ci smenano i risparmiatori, chi se ne frega. Se poi lo Stato è essere chiamato a tappare i buchi con 3 miliardi e 900 milioni, uffa, che volete che sia. Insomma, Feltri dice: manca una telefonata, manca un'intercettazione in questo caso. L'altra vicenda che trovate sui giornali è Saipem. Allora, il Sole 24 Ore la spiega molto bene cosa è successo, il crollo ieri dopo che c'è stato il profit warning, cioè l'allarme utili, l'annuncio che viene rilasciato agli investitori da una società quotata in borsa, con cui si intende avvertire, insomma, gli investitori che gli utili relativi al successivo trimestre sono inferiori rispetto alle attese degli analisti. L'indomani di questo profit warning lanciato c'è stata una compravendita, una vendita di 10 milioni di euro di azioni Saipem, che ha fatto poi crollare il titolo in borsa, tanto che ora la Consob indaga per sospetto insider trading, cioè un reato vero e proprio di abuso di informazioni privilegiate. Come dire, non è che qualcuno a questo punto ha saputo qualcosa e guarda caso nel giro di 24 ore nella notte c'è stata questa cessione di 10 milioni di euro di azioni per le quali la Consob dice bisogna indagare. La bufera su Saipem, interviene la Consob, trovate tutti i dettagli, Celestina Dominelli a pagina 3 del Sole 24 Ore. La giornata in borsa, il crollo di Saipem, il titolo che ha bruciato 4,7 miliardi di euro in termini di capitalizzazione, e questo collocamento di quasi 10 milioni di azioni poco prima del taglio delle stime sugli utili fa insospettire. Fa insospettire, certo, poi ci vogliono le prove, ma voglio dire, a logica effettivamente si deve pensare che qualcuno ha saputo qualcosa prima, altrimenti vuol dire che ha avuto la sferona di cristallone per lui o per questo investitore che ha saputo le cose in anticipo. Davvero una grande visione finanziaria in anticipo. Chissà come è andata a finire. Intanto anche Repubblica, un giorno prima della tempesta perfetta, ceduti a Londra 10 milioni di azioni, e su questo indaga e si indaga. Pagina 7 di Repubblica, il caso Saipem. Alle 7:45 minuti, allora, La politica ieri è stata una giornata in cui se ne sono dati di santa ragione ancora sulla questione, forse la notizia più interessante o di polemica, se volete, della campagna elettorale, perché di temi ovviamente sempre zero, sono le polemiche che hanno tirato in ballo Falcone, Borsellino, Ingroia, Boccassini. Insomma, fare un breve sunto di questi due giorni non è facile. Comunque ha iniziato la Boccassini a dire come si permette Ingroia a paragonarsi a Falcone, si vergogni. Ingroia ha detto: io non mi sono mai paragonato a Falcone, semmai ho detto che come all'epoca di Falcone, quando ci furono polemiche, quando lui andò a Roma all'incarico al Ministero della Giustizia, così io da quando sono in politica sono molto criticato. Anche Maria Falcone ha detto: non tiri in ballo mio fratello. E poi il giorno dopo Ingroia, cioè ieri, Ingroia ha rincarato la dose e ha detto questa frase: la Boccassini non si è scusata, si vergogni lei, non dico che cosa Paolo Borsellino diceva di lei. E ovviamente ha tirato in ballo un magistrato antimafia che insieme a Falcone è più famoso e più celebre in Italia, che è morto, che ora non può replicare. Anche ieri il Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo Borsellino, dice: non tocchi mio fratello, non tiri in ballo mio fratello. Insomma, un gran putiferio. Ingroia Boccassini, interviene il ministro, è intervenuto anche il ministro Severino a dire: ora abbassiamo i toni. Trovate una pagina di resoconto sul Corriere, su Repubblica, due pagine, sull'Unità, pagina 3, con me magistratura in prima linea, ma le toghe non seguono l'ex collega. Andrea Carugati sull'Unità ripercorre un po' tutte le polemiche che hanno accompagnato l'ultima fase della carriera politica e della carriera di magistrato di Ingroia e della discesa in politica, o la salita in politica, insomma come la volete chiamare, quella roba lì. L'ex PM palermitano senza freni in TV, le critiche più severe arrivano proprio dai giudici più impegnati a difendere l'autonomia e l'indipendenza, racconta Andrea Carugati, che questa è stata solo l'ultima polemica, ma in realtà anche nei giorni scorsi, per esempio, il presidente della Corte d'Appello di Roma Santa Croce, che ha detto: non mi piacciono i magistrati che non si accontentano di fare bene il loro lavoro ma si propongono di redimere il mondo, quei magistrati che sono convinti che la spada dalla giustizia sia sempre senza fodero, pronta a colpire o raddrizzare le schiene. È una frase molto dura, per carità, non ha fatto nomi. E ancora il 26 gennaio un altro esponente di Magistratura Democratica, Franco Cassano, ha detto: la candidatura politica del magistrato getta ritroso un'ombra per il possibile condizionamento dell'attività giurisdizionale, dà all'opinione pubblica il dubbio sull'attività precedentemente svolta. E anche Armando Spataro, PM famoso per le inchieste su mafia e terrorismo, Ingroia prima doveva concludere il processo, non siamo i moralizzatori del sistema. Vedo eccessi di retorica spesso determinati da un'errata visione del ruolo del magistrato e sarebbe ridicolo sentirsi salvatori anche solo del proprio condominio. Insomma, queste alcune delle accuse poi sfociate forse anche nella rabbia di Ingroia a dire: vedo quegli attacchi come fu attaccato Falcone, e da lì apriti cielo la polemica di questi due giorni. Per il resto, Bersani ha fatto un invito in qualche modo a Monti a riflettere sulla Lombardia, e cioè i due competitor sono Ambrosoli e Maroni, come dire, Albertini rischia di rovinare la piazza, e nel senso farci perdere, consegnare la Lombardia a Maroni, è un po' una sorta di appello alla desistenza. Per il momento respinto. Berlusconi invece ha risposto, la questione di Balotelli, insomma un po' anche gli slogan della campagna elettorale. Balotelli ha fatto due gol e ha fatto piangere la Germania, mentre Mario Monti ha fatto due gol, cioè l'IMU, e l'altro non ricordo quale che ha detto, comunque ha fatto piangere gli italiani. Insomma, siamo un po' alle schermaglie. La notizia forse più interessante su Berlusconi la dà in un retroscena Repubblica Carmelo Lopapa a pagina 11. Berlusconi sarebbe pronto a una mossa sorpresa, un blind trust per Mediaset, una mini cessione, cioè una cessione di una parte delle quote di Mediaset, per quindi togliere un argomento della campagna elettorale, vale a dire il conflitto di interessi, perché anche dal Partito Democratico ha ribadito ieri Bersani: la prima legge da fare una volta al governo sarà quella del conflitto di interesse. Ed ecco qui allora retroscena: un blind trust per gestire il patrimonio da 4 miliardi di euro. Questo sarebbe pronto per spiazzare gli avversari e tentare di risalire di qualche punto, per fare piazza pulita dell'ultimo baluardo della sinistra contro di me, cioè il conflitto di interessi. È intenzionato il Cavaliere a confermare quello che circola come una voce, cioè una imminente vendita di una quota cospicua, sebbene di minoranza, delle azioni Mediaset. A chi? Russi e arabi i principali indiziati per gli acquisti. A proposito di TV, oggi il Fatto Quotidiano dà una notizia, cioè che la 7 sarebbe sempre più vicina alla vendita per, a favore di Urbano Cairo, che è anche il presidente del Torino. Cairo vuole la 7 per l'amico Berlusconi, ma senza pagarla. Così Carlo Tecce a pagina 9. La notizia va rovesciata e detta così: non è Urbano Cairo che compra la 7, ma è Telecom che regala la 7 a Cairo per conto di un terzo, Mediaset. Questa è la lettura del Fatto Quotidiano, perché Cairo sarebbe pronto a prendere la 7, ma, scrive il Fatto, la Telecom verserà, siccome fa di tutto per disfarsi della 7 a qualunque prezzo, per i conti in rosso, addirittura Telecom sarebbe pronta a dare una dotazione di 100 milioni di euro a chi compra la 7, in questo caso Urbano Cairo, per assorbire il passivo ormai consolidato nei bilanci. In sostanza, Cairo avrà la 7 a costo zero da Telecom, anzi incasserà più di 100 milioni. Questo è retroscena che trovate sul Fatto Quotidiano, vedremo se andrà davvero così. Che dire, ci fermiamo qui? Sì, ieri Balotelli è andato a pranzare, a cenare in un ristorante a Milano e fuori ci sono stati tafferugli tra i tifosi. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati, eccoci qua, siamo in diretta nuovamente. Il numero, se l'avete preso, è il numero della segreteria telefonica, se volete lasciarci messaggi in segreteria, e poi noi quando lasciate messaggi in segreteria li mandiamo in onda alle 6:06:30. Allora, noi dobbiamo avere in diretta, abbiamo sentito poco fa il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, però al momento non ci risponde al telefono perché insomma sarà stato impegnato in altre faccende. Volevamo parlare anche della vicenda, e volevamo parlare della vicenda del fermo ieri del presunto attentatore aggressore di Alberto Musì, il consigliere dell'UDC a Torino, ferito a colpi di pistola, ricordate, dal 21 marzo scorso. Una vicenda per tanti mesi, insomma, è stata una vicenda inquietante, senza svolta. Ieri c'è stata la svolta, nel senso che è stata fermata la persona che è il presunto attentatore di Musì. Ovviamente questo secondo la procura di Torino, che ha seguito le indagini, ma che ha portato a delle svolte che però non dovrebbero essere svolte definitive, nel senso che ci sono ancora alcune cose che devono essere chiarite in tutta questa vicenda. Però il procuratore Giancarlo Caselli al momento non ci risponde, il procuratore capo di Torino, e allora che dobbiamo fare? Sono il bello della diretta, nel senso che 10 minuti fa ci ha risposto, ma al momento non può rispondere al telefono. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in pubblicità e parlare d'altro? Vogliamo anticipare l'argomento di cui dovremo parlare alle 8:30? Alle 8:30 parleremo tra poco di Nutelle, di consiglieri regionali del PD, in questo caso dell'UDC, di Italia dei Valori, di SEL, della Regione Lombardia, che sono stati raggiunti da avvisi di garanzia, cioè il rischio è quello sempre peculato, cioè il rischio di aver utilizzato soldi nostri per spese loro. C'è ovviamente anche la questione della Nutella, cari ascoltatori, 2,70 euro di Nutella rimborsati da parte dei consiglieri regionali, in questo caso un consigliere regionale, Carlo Spreafico del Partito Democratico. Tra poco ne parleremo. Io non so, non si è capito che sto prendendo tempo? Non si è capito che sto prendendo tempo. Forse il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli, lo stiamo raggiungendo tra pochi secondi. Facciamo l'ultimo tentativo. O lo raggiungiamo tra 20 secondi, nel giro di 10 secondi, o altrimenti passiamo ad altri argomenti. L'abbiamo raggiunto, eccoci qua. Procuratore Caselli, buongiorno. Buongiorno. Ho preso 5 minuti di tempo, queste cose che in diretta non si sa che cosa dire, ma la ringrazio per essere qua, procuratore capo di Torino. Allora, le chiedo di questa svolta venuta ieri col fermo del presunto aggressore di Musi. Che vuol dire che è una persona? Intanto le chiedo, ha agito da solo secondo la procura? Le indagini sono finite così? Nel capo di imputazione, il mio collega Furlan, che ha condotto insieme alla squadra mobile di Torino un'indagine davvero, come dire, difficile e complessa, con una professionalità, non sono parole fatte, le solite frasi, con una professionalità davvero eccezionale, nel capo di imputazione scrive eventualmente in concorso con persone allo stato ignote. Quindi oggi come oggi, allo stato degli atti, come usa dire, si procede contro un solo soggetto, sì. Però l'ipotesi che possa aver agito in concorso con altri, eventualmente in concorso con altri, oggi come oggi ignoti, è formulata nello stesso capo di imputazione. E c'è. Senta, si parla di, viene definito anche nelle agenzie, anche dal PM che ha indagato, un faccendiere dall'indole violenta e vendicativa. Cioè, questo sarebbe il movente. Alcuni tentativi di entrare in politica falliti per richieste respinte da Musiche sono sfociati in un odio personale. Secondo la ricostruzione dell'accusa, tengo a sottolineare che sempre e soltanto oggi come oggi, la terza, quarta volta che lo dico, la ricostruzione dell'accusa, perché siamo in attesa, certo, della verifica del vaglio del giudicante, del GIP del Tribunale di Torino. L'indagato era una specie di faccendiere, affarista, tra l'altro con frequentazioni, rapporti con persone così di ambienti non propriamente raccomandabili, ecco, per usare un eufemismo. Cioè, andrangheta? Cercava di darsi da fare dappertutto, ora millantando, ora cercando di mettere in campo dei rapporti che più o meno aveva con questo o con quello. Per quanto riguarda Musi, la vittima di questo tentato omicidio, lamentava, sempre secondo la ricostruzione dell'accusa, sempre nella sua percezione soggettiva, era lui che pensava che le cose potessero essere andate così, lamentava dei torti, lamentava così una sorta di fatti che si erano accavallati, che avevano contribuito alle sue disavventure, se non quasi al suo disastro. Senta, quando e parla, quando parla di... da risentimento, certo, da rancore, inclina alla violenza, mette insieme tutte queste cose, spirito di vendetta, considera Musi un traditore ed ecco reagisce con questo attentato. Quando lei parla di legami, insomma, che o millantava eccetera, parla di legami con ambienti dell'andrangheta? No, parlo dei tre fatti che combinati insieme costituiscono il movente complessivo, e cioè un concorso universitario in quel di Catania. L'indagato aveva sponsorizzato un certo soggetto, perché questa sponsorizzazione andasse a buon fine contava sull'appoggio di Musi. Questo appoggio non sarebbe venuto, nella sua percezione soggettiva, rancore, risentimento, tradimento, vendetta. Lo stesso schema per quanto riguarda le elezioni comunali di Torino, sì, del 2011. L'indagato è candidato in una lista collegata a quella di Musì, raccoglie poche preferenze, ma sostiene di essersi dato molto da fare nella campagna elettorale, e da questo suo impegno si riprometteva dei ritorni, incarichi, quant'altro, che non ci sono, che non arrivano. Di nuovo rancore, risentimento, odio, vendetta, certo, per la diventa. È vero, ci può confermare, procuratore Caselli, che l'unica dichiarazione della persona fermata è stata "sono innocente"? No, ha anche reso altre dichiarazioni, però la linea però è quella. Sì, la linea è quella, naturalmente, la linea di fondo è quella. Le dichiarazioni che ha reso però non spostano il quadro che faticosamente, pazientemente, intelligentemente squadra mobile e procura e il dottor Furlan hanno raccolto nell'arco praticamente di un anno, da quando il fatto è stato commesso fino ad oggi, perché l'inchiesta naturalmente continua. Chiaro. Procuratore, le voglio fare una domanda, approfittando del fatto, insomma, lei è un magistrato, anche per tanti anni è stato un magistrato antimafia, è stato un magistrato a Palermo, ha letto i giornali, insomma, ha visto le polemiche su magistratura e politica che negli ultimi due giorni vorrei sono... rimanerne assolutamente fuori, ho le mie idee, sì, e non sono... Non ce ne vuole dire una, per esempio, su questo tirare in ballo... Le mie idee posso soltanto dire non sono "volemose bene, ambrasso nu", ho le mie idee molto nette, molto precise, su un versante piuttosto che sull'altro, ma ritengo che non sia giusto continuare con questa polemica che scoppia, non so bene perché. Non so bene, cioè in realtà c'è la campagna politica, forse si sa bene il perché, cioè è la campagna elettorale, quindi se ne dicono un po' di tutti i colori. Ecco. È una sua lettura. Sulla questione almeno rapporto politica-magistratura, lei ha una posizione, cioè il magistrato che fa politica, è legittimo perché tutti i magistrati, tutte le persone, anche i magistrati, possono scendere o salire in politica. Per un magistrato, secondo lei, è diverso il ruolo? Il magistrato, sono frasi fatte anche queste, è un cittadino come tutti gli altri. Essendo un cittadino come tutti gli altri, ha i diritti di qualunque altro cittadino, per esempio, in particolare nel caso di specie, quello di partecipare alla competizione elettorale chiedendo di essere eletto se i voti gli arrivano. Ci sono però, inutile nasconderselo, grossi, a volte formidabili, problemi di opportunità, sia per quanto riguarda la candidatura, sia per quanto riguarda il luogo in cui ci si candida, sia per quanto riguarda l'eventuale rientro in magistratura alla fine del mandato. Sono problemi però che devono essere risolti caso per caso, senza generalizzazioni, e però esistono questi problemi, non c'è dubbio. Mi dica solo che cosa non le è piaciuto di più di questi ultimi due giorni, tra Ingroia, Boccassini, Falcone, Borsellino, cioè la cosa che proprio, se c'è una cosa che l'ha infastidita. Non mi è piaciuta la cosa in sé, come si è innescata e come si è sviluppata. Si può almeno concludere, secondo lei? Cioè, si può archiviare e dire vabbè, basta, non parliamone più, oppure ci saranno... Ma me lo auguro serenamente, vivamente, ecco, non, una polemica elettorale già avvelenata non è il caso che si intorbidi ancora di più con polemiche di questo tipo. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e allora dopo ci tufferemo in questa altra straordinaria lista di spese che, per carità, forse è tutto regolare, forse sarà tutto a norma di legge, sarà tutto da provare. Ma insomma, quando uno legge i giornali e legge che i consiglieri, in questo caso dell'opposizione, in Lombardia, dopo che qualche mese fa si era usata la lente di ingrandimento sulle spese della maggioranza, e i consiglieri dell'opposizione in Lombardia si sono presi e hanno rimborsato a nostre spese un ombrellino elettronico, un crodino, due coni, un magnum, un gelato, dei libri, cene quelle a non finire, un BlackBerry, un computer, quattro macchine fotografiche e un vasetto di Nutella da 2,70 euro, insomma, c'è da tenere bene, se state guidando, come dico io, le mani sul volante, altrimenti rischiate sbandate. 24 mattino, 8:34 minuti. Allora, se volete intervenire in diretta, 800 24 0024. Parliamo della vicenda, se stavolta torniamo sulla vicenda dei consiglieri della regione Lombardia. Uno legge i giornali, oggi il Corriere della Sera: Nutella, tram, vino, bollette, i rimborsi illegali, ci sono anche le bollette legate casualmente alle utenze della stessa casa del consigliere del PD Francesco Prina, ma sarà forse una coincidenza, non lo so. Comunque, per carità, ci sono le indagini, siamo garantisti tutti, ma quando leggiamo di biglietti del tram da un euro, di Nutella per 2,70 euro rimborsati, è chiaro che poi i titoli dei giornali sono tutti consiglieri beccati con le mani nella Nutella. Con noi c'è il capogruppo, torna con noi il capogruppo del Partito Democratico alla Regione Lombardia, Luca Gaffuri. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ben ritrovato, Gaffuri. Saluto anche il direttore del Secolo XIX, Umberto La Rocca. Direttore, buongiorno. Perché, buongiorno. Ecco, perché buongiorno. Il Secolo XIX da giorni, io lo leggo in rassegna stampa, sta battendo il tasto su quello che è successo in Liguria. Davvero, ieri addirittura si è scoperto, pare, di stipendi paralleli in nero pagati in aggiunta, ovviamente, lo stipendio normale da 10.000 euro per alcuni consiglieri regionali. Però intanto, Gaffuri, allora, siamo tutti garantisti, eccetera, però anche la Nutella da 2,70 euro si arriverà a giustificare? Penso che sia stato un errore da parte del consigliere aver inserito comunque questa richiesta di rimborso. Un errore in che senso? Cioè un errore, una svista o un errore, uno probabilmente nelle ricevute che sono state consegnate è stato inserito anche questo scontrino che non doveva essere inserito. C'è anche il crodino da 6 euro, l'ombrello automatico da 9 euro, c'è un canone di locazione di un box, leggo dal Corriere della Sera, a 648 euro, sempre per Carlo Spreafico, ma poi ci sono anche altri. Sì, per esempio, guarda questa voce, diciamo una voce comunque legata a una sede che il consigliere Spreafico aveva sul territorio, per cui diciamo che pagava l'affitto della sede, pagava l'affitto del box. Cioè il box è il pagamento dell'affitto del box della sede del Partito Democratico a Lecco? No, non è la sede del Partito Democratico, no. Era la sede territoriale del consigliere Spreafico. La sede territoriale del consigliere Spreafico, cioè nel senso, perché senso che dove riceveva praticamente dalle persone del territorio, piuttosto che dove aveva una persona che gli seguiva appunto gli aspetti più collegati al territorio. Ecco, io ho questo sospetto, Gaffuri, ma vorrei chiedere anche al direttore La Rocca su questo, che con questa china tutto sarà giustificato, cioè dal punto di vista della legge, secondo me non si troverà nulla di ingiustificato. Poi vediamo agli assegni, agli stipendi in nero, lì magari sì, ma dicendo è un errore, una svista, è entrato 2 euro, il crodino sì, forse è sbagliato, ma stavo incontrando una persona per motivo istituzionale, cioè così si giustifica tutto o no, sbaglio, direttore? Ma può darsi, però resta il problema che c'è una questione di opportunità politica che è imprescindibile. I politici dovrebbero aver capito che in questo periodo dovrebbero apparire, oltre che essere dei frati trappisti, se vogliono restituire un minimo di credibilità all'attività che svolgono, e invece così non è, e dovrebbero anche capire che il ridicolo delle mutandine comprate con i soldi pubblici uccide più che non il grande scandalo, perché la gente non parla d'altro. Quando poi si scopre che in realtà a quanto sembra, quanto abbiamo scritto ieri, il meccanismo era un meccanismo assai più complicato di quel che dice il consigliere, il capogruppo Gaffuri, assai più complicato, perché perlomeno in Liguria alcuni consiglieri prelevavano a inizio mese in media 2.000 euro e poi ne disponevano come credevano, e poi all'ultimo momento a fine anno buttavano dentro tutte gli scontrini e le ricevute che avevano per fare massa e far tornare i conti. Sì. Allora così si spiegano gli scontrini, perché uno dovrebbe essere scemo per consegnare lo scontrino, certo, lo scontrino della Nutella. Il problema è che sapevano che non esistevano, che i controlli erano molto ma molto laschi, sì, e che con la connivenza di tutti si chiudeva un occhio, e era quello un modo di autofinanziare se stessi, sì, diciamo. Cioè, questa è ancora, però, direttore, è ancora più interessante e se vuole un sistema ancora più complicato. Cioè, questo per la Liguria ci sta dicendo che prelevavano in nero dei soldi che non potevano essere giustificati e quindi per giustificarli si mettevano delle spese che poi all'apparenza risultano delle spese assurde. Ma era un modo per poi attraverso la legge bonificare dei soldi in nero. Questo è la... Io dico questo, sì, dico che per tre consiglieri almeno dell'IDV questo è abbastanza accertato dai magistrati, e cioè proprio come dice lei, si prelevavano i soldi in anticipo, sì, li si usava nessuno sa come, sì, e poi a fine anno si faceva un po', si rovistava nei cassetti per vedere di trovare scontrini. Tant'è vero che nel caso dei conti del gruppo dell'IDV, dell'Italia ex Italia dei Valori, sì, poi si sono scissi, divisi, eccetera, ma insomma quando erano tutti insieme, mancano non giustificati circa 60.000 euro. Cioè riciclaggio di slip, riciclaggio di, sì, di riciclaggio, sì, di biglietti del tram. Questa è una battuta ovviamente. Vorrei tornare per un attimo, Luca Gaffuri, che ne pensa di quello che ha detto anche il direttore del Secolo XIX? Ieri sul direttore sul Secolo c'era un editoriale a dire quasi un appello, cari politici onesti, e siete in tanti, e sono in tanti, e sono, io voglio che siano la maggioranza, ribellatevi voi, basta queste cose, cioè additate i vostri colleghi che mettono magari delle spese assurde, dite io non lo faccio, cioè se non apparite come dei frati trappisti vi inchioderà la Nutella pur con 2,70 euro piuttosto che un'inchiesta della Guardia di Finanza, non crede Gaffuri? Vabbè, innanzitutto io porto la nostra esperienza, le spese del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia in questi 2 anni e mezzo quando io sono stato capogruppo, in termini di rimborsi ammontano 72.000 euro, che se si dividono per 21 consiglieri e per 30 mesi fanno una media di 102 euro a consigliere. Dall'altra parte voi mi parlate appunto della situazione della regione Liguria, sì, le dichiarazioni fatte da parte di consiglieri della Lega in regione Lombardia comunicano che invece spettavano i consiglieri della Lega 1.500 euro al mese, che avevano un vademecum su cui dovevano presentare poi le spese relative. Da noi le spese erano quasi totalmente centralizzate, vi era l'eccezione appunto nel caso una persona si trovava fuori sede, a quel punto gli veniva fatto il rimborso appunto del taxi, sì, piuttosto sì, che del ristorante nel caso incontrasse istituzionalmente delle persone, amministratori locali piuttosto. Insomma, che Lega Fuori ci sta dicendo che è tutto normale, cioè che è tutto regolare. Io so no, che lei... ovviamente noi riteniamo comunque esserci attenuti alla legge, sì, e dall'altra parte comunque di aver anche attivato degli strumenti di controllo dove perfetto, comunque sì, il grosso diciamo non è filtrato. Allora voi errore. Ecco, noi ci siamo attenuti alla legge. Nel caso di Crodini, Ombrelli, il corso di inglese da 140 euro sempre Carlo Sprea, oppure le bollette del telefono per il consigliere Francesco Prina dello stesso indirizzo dove risulta risiedere a Corbetta, sono nel caso, cosa sono, errori? Cioè non c'è... Sì, no, allora, ad esempio sì, questo a me risulta che non sia presso l'abitazione, ma sia presso appunto la sede territoriale del consigliere dove sempre ha un ufficio. Sempre sta sede territoriale, accidenti. E tutto questo è nella norma. Perché no, lei è previsto dalla legge di Regione Lombardia. La Regione Lombardia. Non è il caso di cambiare la legge, Gaffuri. Io continuo a dire che bisognerebbe mettere a zero queste ipotesi di spesa. 0 euro. Così non c'è ombra di dubbio che ci possano essere degli errori anche. Allora, innanzitutto andrà quasi a zero perché comunque nel decreto sulla spending review è previsto praticamente che i fondi sul funzionamento e sulla comunicazione dei gruppi consigliari viene praticamente portato a 1/10 di quella che è la spesa attuale, sì, per cui sì, viene ridotto del 90%. A quel punto rimarranno esclusivamente le spese di carattere, non so, telefonico, degli uffici, piuttosto che fotocopie, piuttosto che materiale informatico. Quindi arriverà quasi a zero. A quel punto verrà centralizzato tutto sul consiglio. Direttore La Rocca, direttore del Secolo XIX, perché avete fatto questo appello ieri? Che io ho letto con molta attenzione, c'è un appello proprio alla politica onesta di essere i primi a dire alzatevi e ribellatevi, a dire non siamo tutti così. Sì. Ma per un motivo molto semplice, perché non crediamo che tutti i politici siano disonesti o come Si dice di solito che la politica sia una cosa sporca o stupidaggine in questo genere. Pensiamo che una parte della classe politica, diversi partiti, bisogna dare atto, a parte al capogruppo Gaffuri, del coraggio di essere qui mentre altri di solito si sottraggono, sì, ma anche per quel che io so della situazione in Liguria, che per esempio il Partito Democratico è veramente lambito soltanto vicino rispetto ad altre forze politiche da questa storia. E il problema qual è? Il problema vero? Il problema vero è che la politica dal 92 in poi non riesce ad autoriformarsi e non riesce a cambiare le cose se non quando intervengono i magistrati. Allora poi però, se è così, non si lamentino dell'invadenza delle toghe in campi impropri, perché sì, i magistrati svolgono un ruolo di supplenza, e lo dice assolutamente un non giustizialista e una persona che crede nell'autonomia della politica. Ma se la politica questa autonomia non la sfrutta e non riesce nemmeno a fare una legge, ci vuole la magistratura. Ma certo, poi è inevitabile, e questo finisce per screditare l'intera classe politica. No, quello che noi chiediamo con quell'articolo è semplicemente si rendano conto chi crede ancora che la politica sia un'attività essenziale per questo paese, capisca che o indica, diciamo, chi è, si alza e dice io non ci sto più insieme con voi, siamo un'altra cosa, oppure c'è il rischio del calderone. No, c'è il rischio del calderone, perché a quel punto questo sì. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, perché poi ce ne sono di ogni, ma è questo che io vorrei ripartire con gli ascoltatori, col capogruppo Gaffuri, col direttore del Secolo XIX, a capire che più della legge è il discredito dei titoli, la Nutella, leggere che c'è chi si è fatto acquistare 11 tombole e poi rimborsate in Liguria 11 euro in bottoni, capite? Sono queste cose. Poi magari dal punto di vista della legge finirà in un nulla di fatto, ma a livello del discredito che c'è attuale della politica, leggere queste cose, la gente non ne può più. Siamo con il direttore del Secolo XIX, Umberto La Rocca, e con Luca Gaffuri, che è capogruppo del PD alla Regione Lombardia. Sentiamo Alessandro da Pesaro, ci ha chiamato. Buongiorno Alessandro, lei che ne pensa? Sì, buongiorno Milan. Ma guardi, io non vorrei cantare, mi sente bene? Sì, bene, dica. Perfetto. Allora, dicevo, non volevo cantare fuori dal coro, però sinceramente le spese, diciamo così, elencate così senza il retrostante del perché, del contesto, sì, sinceramente a me non è che mi frega, mi interessino più di tanto, nel senso il crodino piuttosto che il gelato Magnum o queste cose qui, voglio dire, ma cosa me ne frega, nel senso che anch'io lavoro per un'azienda privata e quando vado fuori a pranzo e sono in servizio per l'azienda, la quale ovviamente mi rimborsa il vitto, io posso anche decidere di mangiarmi un Magnum oppure di andare a bere un crodino. Sì. Ieri mi sono fatto un quartino di vino rosso. Quindi, no, ma certo, Alessandro, sì, lei dice non c'è il rischio di essere qualunquisti, però adesso però non la sentiamo più bene. Però qui la questione è che, a parte che sono soldi pubblici, capisce? Pubblici, non dell'azienda che le viene a contestare al limite le spese, ma sono soldi pubblici. Ma qui è chiaro che la Nutella sono 2,70 euro, cosa vuole che sia 2,70 euro? Ma è il principio che dà fastidio, anche perché le spese contestate sono più corpose, quelle veramente che sono ipotesi di reato, di peculato. Riccardo dalla provincia di Lucca, buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti, io ho una cosa velocissima. Secondo me è una cosa scandalosa quello che stanno facendo tutti i politici. Avevamo fatto un referendum per i rimborsi elettorali, hanno cambiato la semplice parolina e ora comunque possono tirare indietro tutto. Ma se un privato durante la dichiarazione dei redditi sbaglia a tirare indietro qualsiasi cosa, mi fanno un mazzo che non finisce più. Questo sì, però Riccardo, questa è una cosa diversa. Al mercato a comprare la Nutella. Sì, questo Riccardo è una cosa diversa, cioè non sono il finanziamento ai partiti, sono i rimborsi che i gruppi consigliari delle regioni possono usufruire dei soldi in base a quello che le regioni stabiliscono. Cioè se fanno delle spese vengono rimborsate per motivi istituzionali. Gaffuri, lei è indagato? Cioè le è arrivato questo avviso di garanzia? Sì, mi è arrivato l'avviso a comparire, settimana prossima mi recherò a chiarire alcune voci che mi sono state richieste. E l'ipotesi cos'è? L'ipotesi è peculato, immagino? Sì, esatto. Peculato. Senta, io ho come l'idea che lei, che però ringrazio perché è qui, altri come dice Umberto La Rocca si sottraggono e le potrei fare l'elenco, cioè si sottovaluti l'impatto anche, visto che siamo in campagna elettorale, l'impatto dal punto di vista della gente. Lei ci sta dicendo che dal punto di vista della legge è tutto a norma, ma leggere di tram rimborsati a un euro, di bollette, poi si può spiegare tutto, ma capisce il danno mediatico, insomma, che sta succedendo alla politica in questo periodo? No, siamo coscienti dell'influenza che avrà comunque su una competizione elettorale e del discredito comunque che si rischia di creare su tutta l'istituzione regione. D'altra parte le parole di Umberto Ambrosoli di ieri sono state chiarissime, adesso c'è avviso di garanzia per... C'è il cellulare anche che sta facendo un po' le bizze. Direttore La Rocca, se ne rendono conto secondo lei i politici? Io ho come il sospetto che se ne rendono conto a metà. Alcuni senz'altro se ne rendono conto, però credo che anche la prospettiva di indicare, come fa Gaffuri, come orizzonte il prossimo voto politico è riduttiva, perché qui non è il problema di stabilire chi governerà il paese, cosa peraltro importante naturalmente, ma qui il problema è la tenuta in se stessa del sistema. Ora, è vero quel che diceva l'ascoltatore di Pesaro, che sono pochi soldi e che quando uno va fuori in trasferta si prende a spese dell'azienda il gelato, il quartino di vino. Non è questo quello di cui si discute. Qui si discute semplicemente del fatto che oltre a una gestione che non è soddisfacente, diciamo, la maggioranza della gente non è soddisfatta di come viene gestita la cosa pubblica. Oltre a questo, su questo si aggiunge anche il grottesco, cioè lo scontrino delle mutandine. Sì. Se le cose funzionassero, non facciamo tanti moralisti, se le cose in generale funzionassero, se non ci fosse probabilmente la crisi economica, queste cose qui passerebbero in cavalleria. Certo, non farebbero notizie. È quello che invece fa imbestialire la gente, che le cose non funzionano e in più la classe politica sembra non rendersi conto di queste cose. Sì, si arrocca un po' a riccio. La Rocca, prima di dire una cosa, faccio sentire quello che due giorni fa ci ha detto Antonio Di Pietro. Noi qua l'abbiamo avuto sulla questione della regione Liguria. Vabbè, è una battuta che ha fatto all'interno di un discorso un po' più serio. Lo rimandiamo perché insomma ha fatto un po' scalpone. Di Pietro deve fare un salto anche in Liguria. Sa che la gente si è molto arrabbiata per leggere quello. Lei dice: noi dell'Italia dei Valori siamo parte lesa per quello. La parte lesa veramente sono i cittadini che hanno visto tutte queste spese dei consigli. Io sono un cittadino, io sono stato leso perché ho dato fiducia a due persone che venivano dalla società civile. Allora, Umberto La Rocca ha detto: vabbè, a parte la battuta, è che sono io un figlio di puttana, sono un cittadino pure io sono la parte lesa, perché è sempre questa autodifesa a dire: ho dato fiducia a delle persone che adesso andrò a vedere che cosa hanno combinato. È davvero la parte lesa di Pietro, secondo lei, direttore? No, secondo me assolutamente no. Noi abbiamo segnalato più volte che le forze a cui faceva riferimento Di Pietro sul territorio non si comportavano correttamente, ci sono state delle inchieste, una vicepresidente della regione si è già dimessa di Pietrista, diciamo allora di Pietrista, poi passata altrove, e io sul mio giornale ho definito questi signori una banda e aspetto ancora di essere querelato, quindi Di Pietro sapeva tutto. Il problema vero è che tutti i partiti, almeno io la vedo così, che si pongono in una prospettiva di rinnovamento etico, a un certo punto si trovano un bivio: continuare a fare la loro battaglia di testimonianza e rimanere al 5%, è la storica situazione del Partito d'Azione nel dopoguerra, oppure imbarcare un po' tutti per cercare di crescere. Questo è quello che ha fatto Di Pietro. E poi non si può lamentare se si trova con dei compagni di viaggio che non hanno che sbagliano. Allora, Luca Gaffuri, ma lei con Carlo Spirafico ci ha parlato, perché è quello che ha fatto le spese più, a parte la Nutella, un cono, un magnum, un corso d'inglese, il crodino da 6 euro e poi il bollino da 110 euro di iscrizione all'albo dei giornalisti annuale. Anche questo è un errore, Gaffuri. No, distinguerei ad esempio questa voce: lui era titolare della testata che il gruppo praticamente pubblicava, per cui era praticamente... E perché glielo dobbiamo pagare noi l'iscrizione? Cioè, anch'io lavoro a Radio 24, ma mica, la, dopo, radio, mica la radio mi paga il bollino annuale. Dopodiché può essere opinabile, ma diciamo che comunque era collegato comunque a un incarico, ecco, che lui aveva avuto da parte del gruppo. Capisce che così si collega tutto, si collega tutto. Io infatti lo dico, per legge non troveranno nulla, perché tutto è collegabile al ruolo che faceva. Siccome era il direttore della testata del Partito Democratico all'interno della regione, è giusto che il gruppo, il PD, gli paghi il bollino da 100 euro annuale. Secondo me non è giusto, ma per la legge sarà dimostrato che è giusto. Ergo, rimborsi zero. Questa per me è la soluzione. Grazie a Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, e Luca Gaffuri, capogruppo del PD alla Lombardia. Ci troviamo domani alle 6:30. 24 mattino.